Regia, ma ricominciamo? Di Tomiccia! E da dove ricomincio? Da dove ci siamo animati! E come faccio? Pizza per il bottone! Quale? Questo? Savonarola, il frate che fece baruffa a Firenze, stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari al tempo in cui, per riferirsi a un lontano passato, si diceva quando Berta filava, rifacendosi alla più o meno vera storia di Bertrada di Laon, che era ricca e pure regina, tanto che, pur essendo morta nell'anno 783, ce ne ricordiamo ancora come Berta la Piedona, e lette oggi da me, a cui la parola filare, per riferirsi ai tempi ultimissimi, fa venire in mente un'operaia tessile cinese che ipoteticamente si chiama Wang Li, il nome di donna e il cognome più diffusi in Cina, e che probabilmente a forza di lavorare filati morirà sfinita e sarà pure dimenticata da tutti. D'altra parte dice il proverbio, più vale una savia donna filando che 100 triste vegliando, e comunque chi più che non deve prende fila la corda che poi la appende. Serio, capitolo 1, volume 2, Autogrill. Era venuto uno di quei momenti in cui l'aspetto d'un popolo sembra mutato per incanto. I seguaci del Savonarola o erano spariti o s'erano nascosti. Tutti in Firenze sembravano suoi nemici. Messi continui andavano e venivano da Roma e Milano. La città era gremita delle spie del Moro che si davano un gran affare e scrivevano al duca che d'ora in ora s'aspettava qualche gran mutamento operato per mano della signoria stessa. Infatti il Berlinghieri ed il Popoleschi con Faloniere cercavano ogni modo per trovare la via a mutare la forma del governo. Ma ecco sorgere un singolare incidente verso cui inaspettatamente si volgeva tutta la pubblica attenzione. Un francescano per nome Francesco di Puglia, predicando la Quaresima in Santa Croce, aveva cominciato ad attaccare il Savonarola con una singolare violenza e pertinacia. Lo chiamava eretico, scismatico, falso profeta e, non contento di ciò, lo sfidava a entrare nel fuoco onde provare la verità della sua dottrina. Simili sfide avevano avuto luogo ancora altre volte e il Savonarola ne aveva fatto sempre quel conto che meritavano, credeva al di sotto della sua dignità il rispondervi, ma il caso volle ora che Fra Domenico si tenesse personalmente sfidato, già che nell'anno scorso, trovandosi egli a Prato, aveva avuto una disputa con quel medesimo frate circa la dottrina del Savonarola. S'erano allora sfidati ad una pubblica discussione, ma nel giorno fissato il francescano, che era stato primo ad attaccare ed ingiuriare, se ne tornò a Firenze con la scusa d'esservi chiamato dai suoi superiori. La verità era che non gli bastò l'animo di trovarsi insieme con Fra Domenico. Questi adesso, non appena gli fu riferita la nuova provocazione del francescano, pubblicò subito le tre note e conclusioni del suo maestro, dichiarandosi prontissimo a sostenerle con lo esperimento del fuoco. Negli era uomo da retrocedere e quindi la cosa diveniva seria prima che il Savonarola avesse potuto pensare a mettervi rimedio. Ma il francescano già pensava a tirarsi indietro quando vide che Fra Domenico diceva davvero e gli andava ripetendo la sua disputa era col Savonarola e con lui sarebbe entrato nel fuoco sebbene credesse di ardere, ma lo faceva perché voleva che morisse ancora quel seminatore di scandali e di perversa dottrina. Con Fra Domenico invece non aveva nulla a che vedere, e qui poteva aver termine questo sciagurato fatto, già che il Savonarola ammonisse veramente Fra Domenico del suo vecchio zelo e al francescano non pareva vero di trovare un modo onde cavarsene fuori. Ma invece, quando sembrava che la contesa si dovesse spegnere, venne assai più fortemente riaccesa. I compagnacci avevano tenuto una delle loro solite cene, quivi, in abito di raso, fra gli spumanti bicchieri e le molte vivande, decisero di fare ogni opera perché l'esperimento avesse effetto. E si dicevano, se il Savonarola entra nel fuoco, brucerà certamente, e se non entrerà, perderà il credito dei suoi seguaci, e noi avremo occasione di far nascere tumulto e nel tumulto impadronirci della sua persona. Fra di loro verrà chi pensava di poterla uccidere, pertanto andarono subito alla signoria e la trovarono prontissima, non solo a secondare, ma anche a dirigere quelle vergognose trame. Essa fece scrivere per man di notaio le conclusioni in disputa e pubblicamente invitava a sottoscriverle coloro che volessero sostenerle o combatterle con l'esperimento del fuoco. Niuna forza umana poteva allora più trattenere fra Domenico, che infatti andò subito a firmare. Toccava ora indurre il francescano promotore dello scandalo, ma l'impresa era difficile assai. Cominciò a ripetere ai signori che esso non si poteva comparare con Fra Girolamo né per dottrina né per bontà, ma che con lui sarebbe entrato nel fuoco e non con Fra Domenico, con cui non aveva a che fare. Gli assicuravano che non sarebbe entrato nel fuoco, che si trattava solo di far bruciare qualche frate di San Marco per poi opprimere il Savonarola, che quando ciò non potesse riuscire si troverebbe piuttosto il modo di mandare a vuoto ogni cosa. Queste assicurazioni erano fatte dai compagnacci e dalla signoria, ma pure non si poteva ottenere altro se non che il francescano firmasse una dichiarazione nella quale diceva che sarebbe entrato nel fuoco con Fra Girolamo se questi voleva cimentarsi, aggiungendo espressamente però che questo faceva ad istanza e richiesta dei magnifici signori. Quanto a cimentarsi con Fra Domenico, offeriva invece il suo confratello Giuliano Rondinelli. Dopo ciò si sottoscriveva per San Marco ancora Fra Mariano degli Ughi. Finalmente venne il Rondinelli, che non senza molta renitenza si lasciò persuadere e il 30 marzo sottoscrisse che sarebbe entrato nel fuoco con Fra Domenico sebbene credesse di ardere, ma lo faceva per salute delle anime. Questo misero frate era un cieco istrumento in mano all'ira dei compagnacci e alle astuzie del pugliese. Nella signoria si vergognava di trovarsi in queste basse trame, le quali contaminavano la dignità del suo ufficio e non potevano riuscire ad altro che a spargere sangue innocente e a mettere in grave repentaglio la salute stessa della Repubblica. Non mancarono però coloro che francamente disapprovarono questa condotta nella pratica tenuta il 30 di marzo, nella quale i più si accordavano con Carlo Canigiani, che disse: «Cotesta, essere una faccenda di predicatori, è da trattarla piuttosto a Roma, dove si canonizzano i santi, che in palazzo, ove è più conveniente discorrere della guerra e del denaro. Che se poi si vuole in ogni modo fare questo esperimento, si consideri almeno se con esso si vengono a torre le discordie oppur no». Al che aggiungeva Girolamo Rucellai: «A me pare che di questo fuoco si faccia troppo gran mercato. L'importanza della cosa è che si levi via, frate e non frate, arrabbiato e non arrabbiato, e si pensi una volta alla concordia della città». Si levò finalmente a parlare Giovanni Canacci, il quale, tutto commosso e quasi con le lacrime agli occhi, disse queste precise parole: «Quando io sento simile cosa, io non so se sia da desiderare la vita o la morte. E certo, se i padri nostri, i fondatori della città nostra, avessero pensato che qui s'avesse a trattare di simile cosa e che noi avessimo a essere il trastullo e vituperio di tutto il mondo, perciò si sarieno sdegnati di far cosa alcuna. Io pregherei le signorie vostre che ponghino fine a questa cosa e che non abbia a seguire miseria o danno di questa città». Perfino il Vespucci disapprovò questa volta assai gravemente la condotta dei signori, rimproverandoli perché non vedevano che queste erano mene di gente prave e adultera per dar libero campo ai cattivi. Un linguaggio così franco ed insolito manifestava abbastanza in quale esaltamento fosse venuta la pratica e quanto gli uomini gravi fossero indegnati contro il procedere della signoria. In questo modo l'esperimento era divenuto inevitabile, il Papa, gli arrabbiati e la signoria stessa lo avevano assolutamente voluto. Quanto al Savonarola, egli era sdegnatissimo contro i suoi avversari che coprivano lo spirito di parte sotto le apparenze di zelo religioso. Era persuaso che ai frati minori non sarebbe bastato l'animo di reagire all'esperimento, perché sapeva che essi obbedivano solo alle istigazioni degli arrabbiati. Per tutte queste ragioni si adoperava in ogni modo a ciò l'esperimento non avesse luogo, ma nel fondo del suo cuore pensava che, ove si venisse davvero al cimento, l'esito non poteva esserne dubbio. Se Fra Domenico, così egli ragionava nel suo più intimo segreto, si spinge oltre con tanto ardire, certo è veramente ispirato da Dio. Secondo le idee del Savonarola, non era strano e neppure difficile che il Signore volesse, per mezzo d'un miracolo, confondere gli arrabbiati e provare la verità della sua dottrina. Più volte il popolo aveva dalla sua bocca udito che un giorno le sue parole sarebbero state confermate da segni soprannaturali. Il momento sembrava che fosse giunto e tutti erano perciò freneticamente ansiosi di vedere l'esperimento. Gli stessi piagnoni lo volevano più degli altri, perché desideravano e credevano che insulfatto il loro maestro non avrebbe potuto trattenersi di entrare nel fuoco e avrebbe operato il miracolo. In questo modo a Firenze non si ragionava d'altro, e il Savonarola, mentre che disapprovava e combatteva questo esperimento, si compiaceva con se stesso dell'ardore che Fra Domenico vi poneva e del vedere che tutto concorreva fatalmente a renderlo necessario. A tutto ciò si aggiunsero ancora alcune visioni di Fra Salvestro, che disse di aver veduto gli angeli di Fra Girolamo e Fra Domenico, i quali lo accertarono che questi sarebbe uscito affatto illeso dal fuoco. E noi sappiamo che gran fede il Savonarola prestasse alle visioni del suo compagno. Le cose giunsero finalmente a tale che tutti i frati di San Marco e del convento di Fiesole soffrirono d'entrare nel fuoco, e il Savonarola, spinto così da ogni lato, mandò le loro sottoscrizioni alla signoria, dichiarando che avrebbe scelto uno dei suoi per ogni frate minore che si fosse presentato, e che se mai l'esperimento avesse luogo, egli era certo che sarebbe riuscito in favore dei suoi seguaci. Il 1° d'aprile fece in San Marco un breve discorso, interrotto continuamente dalle grida del popolo che si offriva ad entrare nel fuoco, ed in esso diceva: «Ho troppo grande opera alle mani per scendere a perdermi in queste miserabili contese. Se i nostri avversari vogliono obbligarsi pubblicamente a rimettere in questo esperimento la decisione della nostra causa e della riforma della Chiesa, allora io non esiterò punto a entrare nel fuoco e sarei certissimo di uscirne illeso. Ma se vogliono che il fuoco provi la validità della scomunica, rispondano invece alle ragioni da noi allegate. Vogliono forse col fuoco combattere le nostre profezie? Ma noi non obblighiamo né esortiamo alcuno a credere più di quello che si senta disposto. Noi esortiamo invece gli uomini a vivere rettamente, e per questo ci vuole il fuoco della carità e il miracolo della fede. Tutto il resto non vale nulla». Intanto d'ora in ora sembrava che l'esperimento divenisse più necessario, e l'entusiasmo di Fra Domenico cominciava a persuadere i più diffidenti, nonché il Savonarola stesso, che gli fosse veramente eletto da Dio a quest'opera. Gli animi si erano quindi incredibilmente riscaldati, piagnoni ed arrabbiati per diversi fini attendevano con uguale ansietà il giorno dell'esperimento, uomini, donne, fanciulli si andavano ad offerire, e se molti lo facevano per vana mostra, altri certo vi andavano sinceramente. Il 2 di aprile vollero sottoscriversi per San Marco Fra Malatesta Sacramoro e Fra Roberto Salviati, dicendo che si sentivano anch'essi chiamati da Dio a quest'opera. Ed allora, per maggiore pubblicità, fu di nuovo dato alle stampe il contratto con tutte le firme delle due parti. I 10, che sempre erano stati amici del Savonarola, mandavano a Roma minuto ed esatto ragguaglio di quanto accadeva. Acclusero ancora 2 lettere dei frati di San Marco, nelle quali si esponevano le ragioni per cui s'era accettato l'esperimento.